qualcuno? Attenzione, orecchie di porco, c'è qualcuno in ascolto? CQ Canale 10? Avanti, buongiorno. Oh, ciao Natalini. Aspetta, stavo chiamando da poc'anzi, ma no, non mi ha risposto nessuno. E allora, come va? Sì, qualche volta in pullman, qualche volta in bicicletta, qualche volta a piedi, e come vuoi vada. Buongiorno, comunque, buona domenica. E io acceso adesso perché non c'ero, ero fuori. Ho capito. Sai cosa ti dico? Io invece vado con un monopattino e così risparmio benzina. Qui sei considerato che la vogliono portare a 4 euro al litro. Qui ci sono macchi da gardena, però me da legare al manicomio, perché non è possibile. Comunque, col motorino non si va più, si va col monopattino. E mi pare a me buco un paio di cuscinetti, mica ta, un pezzo di daura e me lo porto a fare monopattino, così non manchi imparami. Io vado ancora la 32, se ti sei aggiunto me lo lì a piallare, te lo posso piallare la pedana e anche il manubrio, chiamiamolo così, e tutto il resto dei macchinari ce li ho, per cui l'unica cosa che mi manca è il materiale, ma quello non è un problema, già ne vendono, per cui possiamo farcelo in serie, ne posso una quarantina, cinquantina di questi monopattini e me ne vendo. Infatti così bisogna fare, ma come modina è pittina. Chi vuole la benzina a 4 euro al litro, allora a Righi me ne posso pigliare pure la patente, non solo l'altro. Sì, è un grido, paga domani uno deve pagare la benzina che ti brici, è assurdo, è già molto caro adesso che è 1,70, quasi 1,80, figura di un poco a 4 euro, non so quanta gente la controllerebbe la benzina a 4 euro, quando mai le gente... Gente, perlomeno gente di medio ceto, diciamo, dai. A meno che uno non è milionario, vabbè, se uno è milionario non gliene frega niente, tanto le dirà da fulati, perché per diventare milionario non è la sua vita, e per cui non è presa. Ma uno che ha lavorato la vita a pagare la benzina a 4 euro mi sembra un po' troppo pesante. Io lo credo, via. Oh, io via, la sua famiglia di poco la macchina, figurati un poco. Devo salutare un attimo che è venuta gente, là. D'accordo, Natalini, ci sentiamo dopo eventualmente, eh? Adesso me ne vado sul Mazzarda e mi diverto, ci sentiamo, ciao allora. Ciao. Giulio, ci sei? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, attenzione, c'è qualcuno qua sul canale 10? Piano.